bocciato, non ci va che più. In matematica ho preso un bel 2. In geografia mi hanno dato 0. In italiano non ne parliamo proprio. Sempre 0. 5-0. Tutto 0. Sembrava zar. Seconda strofa. Io la pagella a casa non la do. Domani vado al concerto di Pelù. Che bel cappello del condir, del più bel. C'è bel. Più bel. Sono stato male 4 settimane. Col professore ho fatto ammazzare. E alla scuola non ci va che più. Io vado a casa e te la metto tu. Sempre zaire. 4 zaire. 5 zaire. Tutto zaire. Vai a lavorare così potrai mangiare. Non sfrutta la tua mamma e papà che non ce li ha. È arrivata la bufera. È arrivata.